come consuetudine, qualche rapido saluto prima di iniziare le danze. Abbiamo Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, il buon Valerio Michetti di Grazie Obliqua e Umanima, che ascolteremo anche dopo. Doriana, Panico, Panico che dir si voglia, in quel di Taranto. Giuseppe Verticchio, Nim a Roma. Alberto Clipper, Anna qui a Roma, Moschita di Miramare invece ad Harlem, in Olanda, Maya e Nicolocci in Sardegna. Quest'ultimo come Hexagonal e Stigmate. Marco Milanesi, Orlando Furioso, il medico della peste. Un saluto a Filippo Panichi, valente musicista di area industriale sperimentale da Firenze. Mario Lino Stancati. Andiamo ad iniziare con un personaggio che spesso è stato apprezzato e suonato da queste parti. Sto parlando del buon Gianluca Becuzzi, artista che veramente rappresenta la storia della musica elettronica e sperimentale italiana e non solo, dai lontani tempi di Limbo, Kinetics e anche la sua dimensione solista, costellata da ottime collaborazioni con molti artisti. Ebbene, nel 2022 è uscito questo doppio CD dal nome Axis Mundi, album permeato da una certa, da un certo bisogno, se vogliamo, di religiosità. Un bisogno di altre dimensioni, di altre realtà che vanno al di là di questa cosiddetta giungla d'asfalto. Ebbene, da questo Axis Mundi trapela questo bisogno, a cominciare dalla prima traccia del primo CD, la lunga Nostalgie d'Origine, che ci ascolteremo quasi nella sua completezza. Thank you. il forte potere evocativo, la solennità, l'afflato quasi religioso di Gianluca Pecuzzi da questo suo ultimo lavoro, Axis Mundi, un sontuosissimo doppio CD. Intriso effettivamente di religiosità altra. Compresa questa nostalgia de origine, nostalgia delle origini. Saluto intanto Noise Cluster con Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante e presto un nuovo lavoro per loro. Saluto Eugene Bintras a Venezia come Gin, anche per lui novità. Ultimo lavoro si chiama Apatia e ce lo ascolteremo presto da queste parti. In Val d'Aosta c'è Jean Cloberto, a Roma Like Wake. Saluto anche Simona Pietrucci di Sorry Hills, venerdì in live qui a Roma. Andiamo avanti, andiamo da Raffaele Pezzella, la sua Nesplay Sounds Group Label, che ormai non ha più bisogno di presentazione per gli affezionati qui di Radio Onda Rossa e di questi spazi. Vairagya dal sanscrito significa distacco, ultima fatica per Mario Lino Stancati, artista a 360 gradi, attore, regista, musicista. Sta per partire Urlata all'indietro e Absences Withdrew Our Souls. Thank you. L'ultima fatica per Mario Lino Stancati si chiama Vairagya ed esce per la Nespresso Sounds Group. Non so che di veramente metafisico, di spaziale, collegato anche alla tradizione, ritengono in molti frangenti, con il krautrock di teutonica memoria. Questo insieme anche al precedente Becuzzi, al precedente Axis Mundi, è uno dei migliori lavori di questo 2022. E nel frattempo si sono aggiunti Giuseppe Verticchio di Nîmes, che ci ascolteremo a breve, Giulia Vassena qui a Roma, Lucia Cagliazza, altra eminenza grigia della sperimentazione italiana come Lupsi. Abbissare, diciamo, l'interesse di Cross the Desert, che uscì credo un paio di anni fa, sempre con la medesima etichetta. Quindi Mario Lino Stancati chiaramente è caldamente consigliato a chi ama questi suoni. Più nebbiosi, freddi e glaciali sono quelli invece di Adriano Zanni, un altro artista italiano. Come al solito questa sera avremo molta musica italiana qui a Prove Tecniche di trasmissione. Un bel digipack con le foto proprio dello stesso Adriano Zanni, che esce per la Dissipazio di Nicola Quiriconi. Si chiama Racconti d'osservazione. Pensato e immaginato muovendosi ad agio tra Ravenna, Marina Romea e Borca di Cadore, tre paesaggi e luoghi diversi. Saluto anche Nicola Locci, naturalmente, di Stigmate Hexagonal, e di nuovo Filippo Panichi. Or dunque, da Racconti d'osservazione ci godremo tutto il buio messo da parte e a corte, virgola, spiove. Errada corrige il pezzo in questione. I due pezzi in questione erano La natura viene e Tutto il buio messo da parte. Lui era Adriano Zanni. Dispositivi elettronici, campionamenti, field recordings e fotografie e il lavoro al mastering del prezioso Simon Balestrazzi. Il tutto sotto l'egida della Dissipazio di Nicola Criconi. I primi tre lavori di questa sera, dunque, targati 2022. Intanto saluto Bruno Cossano da Ivrea, di Radio Spazio Ivrea per l'appunto, con il suo programma Plankton ogni martedì dalle 20 alle 21, un programma che somiglia in qualche modo a questo. Saluto anche Simona da Harlem, con, la ricordiamo come Feraglia Planizia, un interessante progetto elettro. Ci ha raggiunto anche Enrico Ponzoni di Sokun Shibutsu Project. Insomma, questa sera il gotha della musica sperimentale in onda e anche all'ascolto. Torniamo indietro di qualche anno e andiamo da un altro artista italiano, proprio qui di Roma, Giuseppe Verticchio, in arte NIM, uno dei suoi molteplici profili, diciamo, artistici. Nel 2019 usciva questo Beyond the Crime Era, che era una estensione di East Crime Era, uscito nel 2012, arricchito da tracce uscite nei primissimi lavori o in qualche compilation sparsa. E allora parte The Tanander's Room e la successiva E Liquid The Nightmare. Le molteplici soluzioni sonore congegnate, ideate e proposte da NIM, Giuseppe Verticchio, ricordo qua proprio di Roma. Beyond the Crying Era, che peraltro grazie a Simona della segnalazione usciva proprio per un'etichetta della sua città, Harlem, la Winter Light. La prima traccia dall'andamento decisamente dark ambient dal nome Tenandar's Room, già comparsa nella prima stesura di questo lavoro del 2012, This Crying Era, e la più, come dire, pervasa da afflato industrial e liquid nightmare dalla compilation Sans Titre del 2001. Un artista a tutto punto e globale, Giuseppe Verticchio, che vado a salutare. Saluto anche Maria D'Agostini e Gianluca Becuzzi, con il quale abbiamo iniziato questa puntata di prove tecniche di trasmissione. Quest'ultimo al momento al lavoro. Risaluto Simona Pietrucci, la ricordiamo, Sorry Hills, ottimo progetto Minimal Dark Wave di Frosinone. Che suonerà live qui a Roma nel fine settimana. Le 21:52 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza www.ondarossa.info. E dunque questi primi 50 minuti di trasmissione con materiale italiano piuttosto recente, se non di quest'anno, e quindi è il momento di tornare parecchio indietro nel tempo e ce ne andiamo in Gran Bretagna. Le cosiddette basi del mestiere, questa volta The Nocturnal Emissions con il primo lavoro Freeting Body del lontano 1982, anche se ristampato in ultima stesura nel 2006 con la Klang Galerie, etichetta austriaca. Infected, LD50 e Breeding Ground, ce l'andiamo a godere questa sera. The passing of urine is no longer under your control. You remain strapped to my table for a period of 24 hours. And in a moment the nurses will insert an enema tube, taking care of yet another of your functions.